Come te la spiego la paura di essere felici quando non l'hanno capita nemmeno i miei amici. Mi dicono di stare calma quando serve, mi portano del latte caldo e delle coperte. Ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare grazie a tutti, ora potete andare, ma resto qui a guardare un film. Come te la spiego tutta la pazienza che ci metto ma non riesco a vivere senza qualcosa che mi opprime, che mi indichi la fine, perché ho un cervello che è strafatto di spine ed il mio cuore è come un fiore, crede ancora nel bene, non sa che i petali cadranno tutti insieme, sarà in quel momento che vorrà scoppiare, mi griderà di smetterla di amare. Questa è la mia cherofobia, no, non è negatività. Questa è la mia cherofobia, fa paura la felicità. Questa è la mia cherofobia, ma tu resta. Come lo spiego quando nessuno ti capisce, quando niente ti ferisce? L'indifferenza più totale verso la forma astrale del male. Abbiamo stretto un rapporto speciale e provo a raccontarlo in ogni canzone, ma la gente pensa sempre parli di altre persone. Ma come tu così carina, con la faccia da bambina, con la voce da piccina. Ma la bambina è cresciuta troppo in fretta tra i muri di una cameretta in cui ha iniziato a stare stretta. E ogni volta che qualcosa va come dovrebbe andare, penso di non potercela fare e cerco ogni forma di dolore mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedetta stanza. Questa è la mia cherofobia, no, non è negatività. Questa è la mia cherofobia, fa paura la felicità. Questa è la mia. Tu resta. Dirti che staremo insieme, dirti che staremo bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.